giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Presidi, procedura nomine sospesa dal TAR del Lazio, 12 istituti della regione restano per ora senza dirigente. Ancora nessuna proroga ufficiale per l'iscrizione all'albo degli educatori, il Ministero della Giustizia aveva garantito. Dopo la chiusura del Molo IV a Trieste, già caos parcheggi, residenti e turisti alla caccia di posti dove lasciare l'auto. Ragno violino, il caldo porta la specie anche in città. L'esperto, non serve la paura, bisogna conoscere e prevenire. I lavoratori introvabili in regione, dice Confartigianato, mancano 7.350 figure con competenze digitali. Aquileia Capital Service, oggi incontro regione sul licenziamento di 43 dipendenti su 53 nell'ex sede Ipobank. Aperto a Trieste lo sportello sociosanitario Emergency con Donk Medicine per i migranti della rotta balcanica. 6 gli atleti del Friuli Venezia Giulia in gara alle prossime Paralimpiadi di Parigi competeranno in 4 discipline. 12:31 minuti, buongiorno da Livia Liberatore e Rita Micoli. L'inizio della scuola si avvicina, ma la partenza appare sempre in salita. 12 istituti della regione potrebbero restare senza dirigente scolastico e aggiungersi ad altri 5 che già di certo lo saranno a causa di una sentenza del TAR del Lazio che ha sospeso in via cautelare la procedura relativa alla nomina dei vincitori del concorso del 2017. Un anno scolastico che parte zoppicando. 12 istituti della regione resteranno senza preside, almeno per i primi tempi. Sono gli effetti della decisione del TAR del Lazio che appena prima di Ferragosto ha sospeso la procedura per la nomina. Risultato? 519 dirigenti scolastici in tutta Italia restano in attesa e tra questi anche quelli destinati al Friuli Venezia Giulia. Tutto congelato fino al 5 settembre quando si riunirà la Camera di Consiglio e il Ministero proverà a impugnare la decisione del TAR. Ma la sensazione, spiega Daniela Beltrami, direttrice dell'ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, è che il Consiglio di Stato non si pronuncerà subito e i tempi si allungheranno. Le scadenze però incombono. Il 1 settembre per ogni scuola dovrà essere assegnato un dirigente. La soluzione di emergenza, continua Beltrame, è di affidarle in reggenza a presidi di altri istituti, una formula che era già prevista per altre 5 scuole, per cui il totale sale 17 istituti in reggenza. Tra i 12 congelati dalla decisione del TAR, 6 sono della provincia di Udine, l'istituto comprensivo di Comeglians, quello di Basiliano Sedegliano, quello di Tolmezzo e l'università castrense di San Giorgio di Nogaro, oltre al comprensivo di Pasian di Prato e quello di Lestizza Talmassons Mortegliano. Nella provincia di Gorizia c'è il Costarda Vinci e il CPA1 di Monfalcone, per quella di Pordenone il comprensivo di Zoppola e quello di Porcia, oltre al comprensivo Rorai Cappuccini, uno solo per la provincia di Trieste, a Muggia, il comprensivo Giovanni Lucio. Per Massimo Gargiulo della FLC CGL regionali la situazione rende ancora più complicato il problema del dimensionamento scolastico che avrebbe creato istituti ipertrofici e poco appetibili dai dirigenti. Inoltre conclude sarebbe stato opportuno mettere a disposizione dei nuovi presidi tutte le 17 sedi scoperte e non solo le 12 dell'elenco. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Non c'è ancora traccia di una proroga per l'iscrizione al nuovo albo degli educatori socio-pedagogici. Il termine è scaduto il 6 agosto. Il Ministero della Giustizia aveva promesso che si sarebbe potuto prorogare alla fine dell'anno. Bastava aspettare che i ministeri interessati predisponessero il testo della proroga e lo inserissero nel primo provvedimento normativo utile. Ma ad oggi non ci sono novità, lo evidenzia l'Unione Sindacale di Base in una nota in cui ricorda che la richiesta di proroga era stata fatta proprio anche dalla regione Friuli Venezia Giulia. L'assessore al lavoro Rosolenna a fine luglio aveva preannunciato il provvedimento ai sindacati, dando appuntamento a settembre per un tavolo tecnico regionale sulle proposte di modifica alla norma. Nel frattempo, sottolinea l'USB, ci sono lavoratori del settore pubblico, come quelli dei ricreatori di Trieste e del privato, che dopo anni di formazione rischiano di rimanere esclusi e di non poter più esercitare la professione, mettendo a rischio la tenuta dei servizi. E a Trieste è caos parcheggi. Dopo la chiusura del Molo IV aumenta la pressione sul Park San Giusto, quello più in centro, con disagi per i cittadini e confusione per i turisti. Mentre avanzano i lavori di smantellamento del varco d'ingresso dell'ex parcheggio del Molo IV a Trieste, con qualcuno che ancora si blocca interdetto davanti ai cartelli che ne annunciano la chiusura effettiva dal 12 agosto scorso, cittadini e turisti che arrivano in centro città sono alle prese con l'affannosa ricerca di un posteggio, problema che con la ripresa di settembre potrebbe aggravarsi. L'impatto dei quasi 500 posti in meno del Molo IV, cancellati in vista dell'avvio del cantiere per il parco lineare del Porto Vecchio, si fa infatti sentire in particolare in concomitanza con le toccate delle navi da crociera e la conseguente chiusura delle rive, come dimostra la coda costante per entrare al Parc San Giusto. Meno affollati, invece, il parcheggio sotterraneo nei pressi dell'ospedale Maggiore, poco noto a chi arriva da fuori città, e soprattutto quello del Silos accanto alla stazione, individuato come soluzione dal comune assieme all'ipotesi di un ammorbidimento della zona delle rive preclusa ai parcheggi. Una mano potrebbe poi venire da una novità annunciata dal sindaco tra le righe che riguarda proprio il Silos, dove fino a poche settimane fa si rifugiavano i migranti in arrivo dalla rotta balcanica. L'opposizione, dal canto suo, denuncia come la valutazione di soluzioni alternative al Molo IV sia stata annunciata solo a ridosso della chiusura del parcheggio, quando l'avvio del cantiere per il Porto Vecchio era annunciato da lungo tempo. Trieste, Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. Parliamo ora di fenomeni meteo estremi. Domenica sera, poche ore prima della tragedia del mega yacht ormeggiato al largo di Palermo, un violento temporale si è sviluppato a largo di Grado, esaurendosi però rapidamente senza causare problemi. Sentiamo allora perché questi fenomeni possono capitare anche al largo delle nostre coste. Tempesta in mare quando l'intensità del vento arriva oltre i 30 nodi, ma già con un forte maltempo si può andare incontro a pericoli. Domenica verso le 21, quando era in corso l'allerta meteo diramata dall'ARPA FVG, a largo di Grado si è creato in pochi minuti un fortunale che si è attenuato con altrettanta brevità e senza conseguenze. Poche ore dopo, a largo di Palermo, c'è stata la tragedia del mega yacht affondato. Tempeste che possono verificarsi quindi anche a largo delle nostre coste. Arturo Puccillo, ARPA FVG. Assolutamente sì, sono tipologie di temporali compatibili con la meteorologia e la climatologia delle nostre zone. Ci sono presentati anche in passato, sia dal punto di vista di venti cosiddetti lineari, cioè sistemi temporaleschi che fanno spirare il vento nella medesima direzione improvvisamente, per chi è di Trieste può conoscere il termine Neverin, per esempio, sia come fenomeni vorticosi, come apparentemente è stato questo, adesso non ho visto i dettagli, però questo di fronte a Palermo, quindi con formazioni tornadiche anche di rilevante velocità. Con i mezzi a disposizione come i radar si può capire se sta per arrivare un fortunale in mare? Beh, ci sono delle tecniche di cosiddetto nowcasting, che una volta che si è formato sostanzialmente ad esempio un temporale, un sistema temporalesco, possono valutarne l'evoluzione nell'intensità e anche nella propagazione della direzione. Sono tecniche che però hanno alcuni limiti, ad esempio il limite legato proprio all'innesco stesso, non riescono a prevedere esattamente dove e quando si innescherà un temporale, e anche un limite legato alla sua estinzione, non riescono a prevedere dove e quando questo temporale perderà intensità e quindi diventerà, diciamo, trascurabile. Ma c'è una correlazione tra l'innalzamento delle temperature del mare e la formazione di questi eventi? Questo sicuramente fornisce energia all'atmosfera, però per avere fenomeni intensi, anche temporaleschi, anche localizzati, non basta l'energia, è necessaria anche un certo dinamica, cioè l'atmosfera deve essere predisposta a creare, a generare in sé questi fenomeni, che poi possono, diciamo, come un serbatoio di benzina, raccogliere questa energia e trasformarla poi in fenomeni intensi. Ecco, qui il tema è molto più complicato perché se da un lato c'è più energia, dall'altro lato non possiamo dire che ci sia una maggiore predisposizione dell'atmosfera a innescare, a formare questi temporali. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ora dunque uno sguardo alla situazione meteo attuale, il cielo da coperto a variabile sulla regione, le temperature registrate alle 11, a Trieste 25 gradi, mare poco mosso con temperatura di 27 gradi, a Pordenone 25 gradi e mezzo, a Gorizia 24, a Udine 22 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 22, a Tarvisio e a Forni di Sopra 19 gradi, sul Piancavallo 18 gradi, a Sappada 15, sul Monte Zoncolan 16 gradi, sul Monte Lussari 13 gradi e mezzo, a Lignano 28 gradi, a Grado 25, la temperatura del mare nelle due località è di 26 gradi. Le previsioni per oggi pomeriggio, cielo in prevalenza nuvoloso, poi schiarite con cielo variabile, possibili piogge sparse intermittenti, in genere deboli o moderate, ma sarà possibile anche qualche temporale con piogge localmente abbondanti. Per domani al mattino possibile cielo in prevalenza nuvoloso, poi variabile o poco nuvoloso, possibili piogge sparse in genere deboli o moderate, ma anche qualche temporale con piogge localmente abbondanti, specie al pomeriggio. Sulla costa verso sera possibile bora moderata. Non c'è emergenza, il ragno violino c'è sempre stato, il suo morso nella maggior parte dei casi non ha alcuna conseguenza, ma anche in regione il caldo estremo ne favorisce la diffusione. In Friuli Venezia Giulia al momento non ci sono dati ufficiali su casi di morsi di ragno violino, una specie da sempre presente in Italia, ma di cui si è tornati a parlare negli ultimi tempi a causa di alcuni episodi anche mortali come quello del Salento. Ci siamo tropicalizzati, dice il dottor Paolo Zucca, veterinario della Direzione Centrale Salute della Regione. Il caldo fa espandere questa specie non solo in campagna ma anche in città, ma non bisogna avere paura, bisogna conoscere e prevenire. Non è una specie aggressiva assolutamente, è una specie anzi che tende a nascondersi, ma è bene conoscere alcune strategie per prevenire il contatto o il morso. Questo animale tende a nascondersi, si nasconde negli anfratti, viaggia con le persone, viaggia con la legna ad esempio, per cui non possiamo escludere la sua presenza anche in ambito urbano, anche se ovviamente è più presente nell'ambito periurbano. Nel 70% dei casi il morso del ragno non è pericoloso, afferma il dottor Zucca. Innanzitutto sarebbe importante sincerarsi del fatto che è stato veramente un ragno, perché il ragno normalmente quando punge lascia due piccoli fori. In seconda istanza bisogna disinfettare immediatamente la ferita e tenere ovviamente sotto osservazione la lesione, perché nel 70-80% dei casi non succede assolutamente nulla, c'è una piccola reazione cutanea assimilabile a quella di una puntura di una zanzara, ma in un certo numero di casi le cose possono essere più gravi. In che termini? Beh, alcuni manifestano semplicemente una lesione cutanea con un lieve arrossamento, altri cominciano a manifestare anche delle lesioni necrotiche, cioè la pelle ha delle lesioni ben evidenti. Perché? Perché quando il ragno riesce a iniettare il veleno, non lo fa sempre, non riesce sempre, può inserire all'interno della cute anche dei batteri chiamati anaerobi, cioè batteri che vivono senza ossigeno. Nel 2015 e nel 2017 si sono verificati due decessi in Italia che, inizialmente attribuiti al morso di un ragno violino, sono stati poi riconosciuti come causati dalle gravi patologie preesistenti dei due pazienti. Silvano Barone, TGR Friuli Venezia Giulia. Il nuovo capitolo dell'annosa vicenda dell'eredità lasciata da Hippo Bank sul territorio è quella che vede il licenziamento annunciato nei giorni scorsi dalla statunitense Bain Capital di 43 dei 53 dipendenti rimasti nella sede di Tavagnacco, che era quella della banca austriaca. Il fondo di private equity aveva creato Aquileia Capital Service, società di gestione di crediti deteriorati, per amministrare quanto lasciato dall'istituto bancario già controllato dal governo di Vienna e altri pacchetti di non performing loan acquisiti. La sede operativa di ACS era rimasta alle porte di Udine, dove nei programmi del gruppo statunitense resteranno operativi solo 10 dipendenti. Per gli uffici a Milano e a Roma è stata annunciata la chiusura, portando gli esuberi totali a 66. Oggi alle 14 i sindacati avranno un incontro in teleconferenza con l'assessore al lavoro Alessia Rosolen per discutere possibili azioni contro il licenziamento dei dipendenti friulani di Aquileia Capital Service. A lanciare l'allarme erano stati nei giorni scorsi proprio le organizzazioni sindacali dopo l'incontro nell'ambito della procedura seguita ai 50 licenziamenti collettivi dello scorso anno che avevano riguardato esclusivamente la sede friulana. È stato allora che la proprietà ha annunciato l'ulteriore riorganizzazione con la chiusura degli uffici di Milano e Roma, che invece non erano stati toccati dai tagli del 2023 e il licenziamento di altri 43 lavoratori in servizio a Tavagnacco. Si tratta di una determinazione che non condividiamo, perché erano possibili alternative per garantire la conservazione dei posti di lavoro, dice Guido Fasano della Fabi, riassumendo anche le posizioni di Gennaro Manco della First CISL e di Andrea Rigonat Fisac CGL. L'Aquileia Capital Service avrebbe potuto essere venduta, spiega Fasano, erano anche arrivate concrete manifestazioni di interesse. 7.350 figure professionali introvabili in regione sono i lavoratori con competenze digitali, l'analisi di Confartigianato. Devono essere capaci di gestire tecnologie come l'intelligenza artificiale, il cloud computing, la realtà virtuale. Sono 7.350 le figure professionali introvabili in regione, il 62,6% del totale richiesto dalle imprese. L'allarme arriva da Confartigianato. La transizione digitale delle imprese rischia di rallentare per la difficoltà nel reperire personale con competenze digitali avanzate. Dei 699.000 lavoratori richiesti in tutta Italia se ne trovano appena la metà. A livello regionale il Friuli Venezia Giulia è al secondo posto dopo il Trentino Alto Adige tra le regioni in cui il problema del personale introvabile è più acuto. A Trieste in particolare mancano 1.390 figure, a Udine 3.420, fa meglio Pordenone. Silvano Pascolo, presidente Confartigianato Pordenone. Le imprese artigiane si stanno evolvendo in maniera rapidissima e hanno sempre più necessità di figure di manodopera con elevate competenze digitali. Questo è senz'altro uno dei punti cardine per consentire lo sviluppo delle imprese. La provincia di Pordenone si colloca un po' meglio delle altre in regione, probabilmente questo deriva dal fatto che arriva da una forte industrializzazione. La provincia di Pordenone è una delle province manifatturiere più forti del paese e probabilmente questo ha generato la disponibilità di personale altamente qualificato che può riempire alcune di queste carenze. Ci collochiamo comunque in un contesto regionale dove già Pordenone ha sede una facoltà di ingegneria multimediale e credo che anche questo abbia contribuito a collocare Pordenone grosso modo a metà della classifica delle province italiane. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. È aperto a Trieste lo sportello sociosanitario di Emergency in collaborazione con l'associazione Donc Humanitarian Medicine per supportare i migranti provenienti dalla rotta balcanica e tracciare una mappa dei bisogni delle persone che arrivano sul territorio. Lo sportello è situato all'interno del centro diurno di via Udine 19 della comunità di San Martino al Campo. Sarà operativo il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19, il martedì dalle 14 alle 19, il giovedì dalle 9 alle 12 e il venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Lo sportello di orientamento sociosanitario attraverso il lavoro di una mediatrice culturale faciliterà l'orientamento e l'accesso dei migranti ai servizi di Trieste e Gorizia, promuoverà una maggiore conoscenza dei servizi sanitari e amministrativi presenti sul territorio, svolgerà attività di accompagnamento di pazienti con maggiori difficoltà ed effettuerà attività di contatto negli insediamenti informali e negli altri centri di accoglienza per valutare la condizione di disagio delle persone migranti sul territorio. Viene fermato a bordo di un motociclo rubato, si mostra aggressivo e violento con gli operatori della polizia locale e finisce in manette. È successo a Trieste. Gli agenti, riconoscendo uno scooter di cui era stato denunciato il furto, hanno dovuto inseguire l'uomo che lo guidava, che non si era fermato all'ALT ed era salito sull'affollato marciapiedi di Viale Miramare, cercando di scappare tra i bagnanti. Fermato in sicurezza poco più avanti, aveva posto strenua resistenza al controllo. Accompagnato alla caserma San Sebastiano, l'uomo, che è risultato avere precedenti specifici, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per il presunto reato di ricettazione. Passiamo allo sport. Saranno 6 gli atleti del Friuli Venezia Giulia che gareggeranno in 4 discipline ai Giochi Paralimpici estivi in programma a Parigi dal 28 agosto all'8 settembre. Sono espressione di uno sport paralimpico sempre più praticato sul territorio. Sentiamo Massimiliano Popaiz del Comitato Paralimpico Regionale. Grazie all'attività fatta nel Friuli Venezia Giulia saranno 6 gli atleti che riusciamo a portare a queste Paralimpiadi. In modo particolare avremo Katia Aere per il ciclismo, Giada Rossi con il tennis tavolo, mentre una novità comunque per il tiro a segno avremo Franceschetti Davide, sempre per il ciclismo avremo Maestroni Federico e per il canottaggio Frank Marco. In ultimo, ma non per ultimo, avremo sempre per il tennis tavolo Parenzan Matteo, che tra l'altro è stato il portabandiera della nostra nazionale alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Dunque una partecipazione ampia quest'anno. Sì, anche quest'anno insomma il Friuli Venezia Giulia esprime la sua potenzialità. Chiaramente non è così semplice riuscire a qualificarsi proprio per le Olimpiadi. Tutti i nostri atleti hanno vinto diverse volte magari i campionati mondiali della loro federazione di appartenenza, però chiaramente le Olimpiadi hanno dei requisiti un po' particolari, per cui la qualificazione avviene con un periodo insomma di prove e quindi non sempre si riesce a esprimere il massimo, però insomma siamo contenti di questa presenza. In regione abbiamo quasi 300 associazioni che sono disponibili ad accogliere gli atleti e che fanno tante attività. Abbiamo una trentina di specialità attive, per cui davvero c'è l'imbarazzo della scelta, quindi non posso che a nome del comitato ringraziare tutte queste associazioni e stimolare un po' chi ancora non ha provato a fare uno sport paralimpico a sperimentarsi. Al via ieri a Butru e Castions di Strada la Premier Cup femminile di softball, la massima competizione europea dello sport discendente del baseball, che raccoglie i migliori club dell'Europa. 10 squadre provenienti da 9 paesi: Italia, Olanda, Belgio, Svizzera, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Spagna e Gran Bretagna. Ieri si è tenuta la cerimonia di inaugurazione alla presenza dell'assessore regionale allo sport Mario Anzil. Con le qualificazioni e le finali per i mondiali di softball ospitate in Friuli Venezia Giulia nel 2023 e quest'anno a luglio a Castions di Strada e ieri sera sul Diamante di Butrio, ha detto Anzil, la nostra regione può dirsi capitale mondiale di softball. Siamo orgogliosi di poter accogliere sul nostro territorio queste competizioni di livello internazionale. Ed era questa l'ultima notizia per questa edizione meridiana del giornale radio della TGR del Friuli Venezia Giulia. I prossimi appuntamenti con l'informazione, il telegiornale alle 14 sul terzo canale televisivo. L'informazione radiofonica torna invece su queste frequenze alle 15. Alla parte tecnica Federico Comar e Roberto Cavallari. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso. Da Livia Liberatore e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.